10, Q canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10, hola CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Dov'è? C'è qualcuno in ascolto? Attenzione, canale 10. Hola, attenzione, canale 10. C'è qualcuno in ascolto? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10, messo perché non voleva posto fisso. CQ10, c'è qualcuno qua? E che? Sommi, buonasera. Ehi, grazie, bravo, buonasera. Buonasera, veramente. Ebbene, tutto bene? Tutto bene, Gianmarì, buonasera. Caldo c'è, Natalì, caldo. Allora, Gianmarì, come ti arrivo io a te? Ah, ti arrivo da pochissimo, Natalì. Ti arriverò anche meglio appena mi piazzo l'antenna, questa è tutta messa male, rovinata, l'ho buttata giù. È tutto pronto qua, sto aspettando che si decida un amico mio a darmi una mano e così la tiriamo su. Ecco, si sente la televisione, si copre la televisione. E io adesso la spengo. Scommetto che adesso non si sente più. E adesso è perfetta, dai. Si fa il coprirlo, dai. Adesso va bene. Oh, Gianca. Ma io sono qui che mi sono piazzato la tastiera nuova, mi ho comprato stamattina quel computer perché era tutta messa male quella che avevo. E poi era col filo, questo è senza filo, capito? Ehi, ehi, aspetta che c'è qualcuno che sta chiamando, avanti, avanti che chiama, adesso non parla più. Vabbè. Allora se si basta tutto quanto, va bene adesso. Tutto a posto, dai. Meglio così, dai. Meglio così. E questa radio com'è, com'è? Di lusso Gianmarì, va benissimo questo. Ok, mi fa piacere, va. Ok, va bene Natale, stavo spazzolando, vai, ti ho sentito, mi sono fermato. Ci sentiamo dopo. Eia, come lei desidera. Buon proseguo. Chi è avanti? C'è qualcuno sul 10? CQ10, c'è qualcuno qua? C'è qualcuno qua? Io ce l'ho. Ma allora, chi è avanti? Natalino! Oia, oia! E allora? Mi sta recuperando? Niente, schifo, non sto facendo nulla. Ah, io ho visto ti è passato a casa a prendere il caffè. Oh, cavolo, c'è una macchina lontano, ce l'ho dopo il ponte di Rosello, ce l'ho. Ma non l'avevi fatto quell'abbonamento dal Barcacca? No, non l'ho fatto, ma bisogna che mi decida perché sennò è un problema che mi tocca camminare un bel per andare a pigliarmi la macchina. Stamattina sono andato a prendermi la tastiera e poi quando sono tornato No, non c'è più parcheggio. Lì è un casino a trovarlo, Guarda, non sto uscendo per non prendere la macchina, perché se prendo la macchina poi non trovo più parcheggio. Adesso, quando devo uscire, mi tocca andare là a prendermi la macchina, perché qua vicino non ce n'era posteggio. È un macello, Anche io una volta che stavo venendo da te l'ho dovuta mettere in via Sorso, ma proprio alla fine di via Sorso, dopo la panetteria. Purtroppo qua il problema parcheggio c'è e basta, non c'è nulla a fare. Il cane non vuole che parlo, vuole parlare lui, così è. Mi ne è brincato di noghi e ora amico Muso me ne sta togliendo il braccio, chissà cosa vuole. È un casino, purtroppo i parcheggi ci sono ma tutti a pagamento, che un grido, a pagando, ci sono, ho visto anche moto, coperte, deve essere che c'è qualcuno che mette la moto lì dentro. Pagheranno per l'abbonamento, so che si pagava, allora mi ero informato che si pagava 60 euro al mese. Ma almeno ce l'hai, vabbè che non è custodito quel parcheggio. Vedo c'è la guardia, per forza c'è la guardia lì, c'era la guardia perlomeno, che io sappia. Ho un vigile urbano, ma sta sempre al mercato, una donna, sta sempre al mercato, è pure buona. Allora vado e mi faccio l'abbonamento subito. Sta sempre passeggiando lì dove c'è il mercato del pesce, della carne, sta sempre controllando. C'è il posto fisso lì. Io sapevo che c'era una guardia giurata, veramente. Gizzo. Sapevo. Il vigile urbano dovrebbe essere del mercato, capito? Che cosa mi fa? Il mercato lui girando. Sì, il vigile urbano è del mercato. Il vigile urbano è del mercato. Ma gira il prossimo mese mi faccio l'abbonamento e me ne la porto lì la macchina, perché ho un macello e qua. Almeno è lì e il parcheggio ce l'hai sempre. Ma che di notte è aperto, sì. Allora, sempre. Allora ti conviene uscire a fare, tanto ogni volta devi fare un bel di strada e se quando lo trovi pure. Io ho fatto due giri prima proprio per non metterla lontano, oggi manco in via Sorso ce n'era parcheggio. Era tutto pieno, non c'era un buco per mettere la macchina, ma dimmi tu. Poi oggi è sabato, c'è tutta la gente che... un macello oggi. Fatto male, perché sono andato a comprarmi la tastiera per il computer che c'avevo, quella là che è vecchia a droga. Non funzionava più. Tutta messa male. Già costano poco le tastiere, l'unica cosa che costa poco. Perché mi avevo già comprato il mouse senza fili e così stamattina sono andato e me l'ho comprata senza fili anche la tastiera. Io la tastiera ce l'avevo io, se me lo dicevi, ce l'avevo io nuova, c'ha la pennina USB, tu metti la pennina ed è senza filo. Come la mia, cosa mi dà io? Io l'ho detto che stavo andando a comprarmi la tastiera, già. Purtroppo mi viene male, se no già sarei riuscito a pigliarmi il caffè, ma nel bottino mi aveva giù questa macchinetta tipo la tua, che la fa alla grande. È troppo lontana la macchina, se no già sarei venuto magari. Tanto mia moglie è invitata a una cena, da cosa, e quindi sono anche solo stasera, non mi pare vero. Io invece sono tutti i giorni solo perché sta lavorando, quindi vabbè, esce alle 8, là. Però se alle 8 sono libero. La magara. Stamattina sono uscito e ce l'avevo in macchina l'apparato. Cavolo. Adesso bene, per essere un apparato del genere. Cata. È di lusso veramente. Cazzo. Quello piccolino sta dicendo. Quello della macchina. Cazzo, è di lusso veramente. come apparecchio. Ma gli faccio un lineare che non abbassa il segnale, mi. Ma cos'è, president? Oh, un Intec di chi di ricci, cazzo, questo quadrodo, sarà più mano di me quanti apparecchi, di quelli che c'ha l'attacco del microfono, tipo stereo, mi. Senza, non è come quello del coso che c'ha l'avvitatura, senza avvitatura, E tu che hai finito, cazzo, bisogna... E tu sei un bel come ti attacco, ma il russo funziona benissimo, c'ha la MLFM. Io ce l'avevo così, con l'attacco a spinotto, e quando tiravo il filo mi diceva, magari non va bene, il filo era corto, in macchina tiravo, poi mi diceva l'unico, alla fine avevo fatto già un lungo, un contatto, proprio l'avevo fatto mettere con la 4, e era una meraviglia, così con quella 4 era troppo tolto. Sì, ce l'ho avuto anch'io, l'M430 mi pare della Inter che c'avevo, 430 mi pare che fosse, e quello praticamente pompava anche forte perché c'era un microfono Intec che andava benissimo, ma non bene, benissimo, tutti dicevano che torni a raga. E se no per la via Super 5 ha detto sì, col microfono normale, ma ti voglio il microfono suo, originale, feo come il microfono, però c'è bene, gatta. Ma quali sono quelli che c'hanno, da dove parli c'è il cerchio e la capsula interna? Ma non l'ho mai aperto, è un microfono quadrato, ma brutto come microfono pure, però cata, funziona benissimo. C'è nato Carlo, dice Radio Super 5, dici che la review da Rolatiofi 9.30. Vabbè. No, vanno bene quegli apparecchi. Io avevo il Polman Nevada, ne ho avuto tanti piccolini, andavano tutti bene. Ma questo in particolar modo va benissimo perché dove l'ho messo sta di lusso, è proprio tolto. Qui l'antenna funziona benissimo. Quale gli hai messo l'antenna? La PLC800, ciao, sulla base magnetica, capito? Perché l'altra non rende. Avevo detto che mi ero messo sopra a cosa, dove c'è, dove andavi tu a farti di ex sopra San Francesco lì. E stavo parlando con Luca e gli ho detto, quanto ti arrivo Luca? 9:10 mi sta arrivando, aspetta un attimo che faccio una cosa. Ho preso e ne ho tolto l'antenna VHF che c'ho e ci ho messo quella lì in quell'attacco, quella frusta nera. Beh, con la frusta nera che era fissa sulla cappotta gli arrivavo Santiago Rotta, di tu non va bene. Vorranno regolare le stazionarie magari. No, era già regolata, era. Quell'antenna è nuova, amico, la frusta nera. Però no, non rende come la PLC800, ma manca a confronto, ce la metto. Poi sono andato, una volta sono uscito con la PLC800 e sono andato lì a Plattamona a farmi un giro, proprio per provarla, a vedere, non mi hanno perso un secondo, stavo parlando con Giovanni, quello che abita a Plattamona lì, e con Gianfranco, non mi hanno perso un secondo, e in FM c'è lo stesso benissimo, perché ho provato in AM e in FM quell'apparecchio. Natali, già va bene, dai, se è così va benissimo. E per la macchina, ce n'è per i pulci, qui per quanto la uso io la macchina, finché non mi decida di andare a farmi Lugoso, in Chivi, l'abbonamento, e perché guarda, dove sono io è un macello, no, non faccio altro che andare al mercato e pigliarmi la macchina quando devi uscire, allora ancora uso di più puro. Se io non mi sono prigioniero, sempre prigione sono. Cava cava, vabbè. Un casotto è un casotto. Comunque la PLC 100 non la vendono più, non la vendono più. ma ce ne sono similari, capito? Tu non ce l'avevi la PLC 1000, eppure, però è più pesante la PLC 1000. Io ho l'800, la 1000 non l'ho mai voluta perché è più lunga e più pesante, magari rende un po' di più. No, io avevo la PDC 800, non la 1000, l'ho regalata, capito? L'ho regalata quella lì e la Turbo 2001 vecchia che c'avevo l'ho regalata lo stesso. Guarda, l'amico ce l'ha messa nel camper. Anche quella che è tua è buona come antenna. Però la PLC 800 è più leggera, a chi la dire è un bel più grosso lo stilo, è più pesante come antenna la Turbo. È fatto male andare quella PLC 800, perché ci vuole la base sua, perché c'ha la bobina pure alla base, ecco perché non riuscivi a tararla tu. Io l'ho messa sulla stessa base della Turbo 2001 e avvitava tranquillamente, capito? Però non riuscivo a tararla, però intanto con le stazionali in più usciva più forte della Turbo 2001, capito? Un attimo il break, c'è forte come antenna, però è proprio perché non avevi la base sua, con la base sua è una belva quell'antenna. C'è un break già, fallo venire avanti. Avanti break. Ciao Gianni, ciao Natalino, buona serata. La PLC 800 è una gran bella antenna veramente. Io ce l'ho avuta, l'ho regalata anch'io qualche annetto fa. Per cui va bene così, ma intanto ormai non la usavo più, non mi interessava più di tanto. Però era nuova, era nuova, fiammante, veramente, molto bella. Vai Gianni. Adesso non le fanno più, se no me l'avrei presa, è più leggera, ragione da salire, più leggera della Turbo, però tiene meno watt mi pare. La Turbo mi pare che ne tenga 1000. Ma i watt non c'entrano niente, se esci con 5 watt, anche con 100, cosa te ne fotte che renda 1000 watt? Ma vai a un linea da 1000 watt, no già? No, io no, quello no, però intanto se... uno la vuole usare con tanti watt, vabbè io l'ho presa perché a me piaceva anche l'antenna, capito? Ma tiene un bel watt quella lì, sì, va bene. A me non mi perdono lo stesso, sai, quando vado a Plattamona mi ha accompagnato anche da Alghero, dall'aeroporto sino a Sassari, Carlo. E non mi ha perso un attimo. Figurati, no, vanno bene, poi io lineare non ne ho in macchina, con 5 watt a voglia, che poi mi ha tenuto il 5,50 amico, l'antenna, teneva il 5,50, siamo stati un 3,400 watt. Cava. Ma quelli ti sballano la centralina appunto. E poi sono nel bongo lineare io, con 5 watt va benissimo, anche in mezzo ai palazzi, da tutte le parti mi ricevono bene con quell'antenna, perché l'ho provata ed è favolosa. Sì, è vero. Avanti giù. Ok. Comunque ne reggeva 800, dicevo poc'anzi, forse non mi avete sentito. Si chiamava così 800 perché era tarata per 800 watt o Gianni. La 1000 era per 1000 watt e così via. Per cui erano più che sufficienti, no? Anche perché lo stilo è tutto in acciaio, flessibile, conico, per evitare anche un po' di QRM, perlomeno così dicevano le caratteristiche dell'antenna. Poi non so se effettivamente era così, però andava molto molto bene, è un'antenna che andava molto ma molto bene. Vai Natali. Buonasera giù, scusa se non ti ho salutato poco fa, non ho avuto l'occasione. Certo che vanno bene, era la mia Tucabulai, Buriduti in campagna, nulla, funzionava benissimo, perché era molto flessibile, oltre che leggera è flessibile, invece quella che ha Gianni è più rigida, è più pesante pure come antenna. Sì, in effetti è così. No, la PLC 800 era meravigliosa. Intanto era una marca favolosa, la Sigma, che la costruiva, adesso non so, forse non costruisce più antenne, questo non te lo so dire, però era favolosa, era un'antenna straordinariamente bella, bella e soprattutto che rendeva molto bene. Avanti Gianni. Ma Gianni non riprende, adesso si è spostato a fare qualcosa. Infatti io ho sempre quella vecchia che avevo sempre, che avevi visto tu, ce l'ho sulla base magnetica, non è neanche fissa nella capota, perché me l'avevo tolta e me l'avevo messa qua per ascoltare sopra il frigorifero, te lo ricordi giù, sempre in antenna. Sì, beh certo, no, ma io ce l'avevo addirittura fissa al centro della capota, ce l'avevo, ma nell'altra macchina, non in questa che ho adesso, per cui adesso sono 20 anni che non le sto più portando in macchina, per cui, però funzionava che era una meraviglia, anzi addirittura l'avevo utilizzata anche nel motocarro, ti puoi immaginare, quando il motocarro da lavoro che avevo io, anche lì l'avevo utilizzata, e funzionava anche lì, che era una meraviglia andare lì. Infatti io l'ho provata da poco e guarda, anche stamattina ce l'avevo in macchina, che sono andato a fare una commissione e uscivo veramente bene, e poi col baracchino piccolino che ho io, c'è un baracchino piccolino in macchina, no? Perché il 3009 è un bel rasone, dove me lo metto? Invece ci ho messo quello piccolino che mi hanno regalato, tra l'altro, quel baracchino, me l'hanno regalato, quello che ho nella macchina, e funziona benissimo. E certo che sì, ma io mi ricordo con quella parlavo tranquillamente dappertutto, soprattutto con la Corsica, tutti i giorni ci parlavo con la Corsica. Quando rientravo la sera mi fermavo lì vicino allo stadio, mi fermavo e parlavo con Felice, Antonio Felice, il greco, dai, per cui era una meraviglia, sentiva che era veramente una bella antenna, molto, molto performante. E infatti, sei dalla Tevolce a cosa? A Carlo, gli arrivavo 9.30 stamattina, che ti ha già detto, e sono dicendo con 5 watt, figurati si fa giù lineare. Vabbè, quello sì, vabbè, da Carlo arrivano tutti 9.30, tutti 9.30 da Carlo arrivano, perché lui ha un'ottima posizione, per cui riesce ad acchiappare un po' tutti, anche perché poi non so quanto sia affidabile lo strumento a LED, perché è con le barrette a LED, per cui lì basta uno nulla che va a fondo scala il segnale, per cui non lo so fino a quanto può essere affidabile un segnale dato così con lo strumento a LED. Lo sappiamo benissimo, no? Che c'è poi una certa differenza, cioè, tra quella lancetta che quella a LED o Natale. E già lo so quello giù, già lo so cosa ti volevo dire, però anche se arrivavo Santiago 9 andava benissimo per Sassari. Io arrivavo Santiago 8, ma mi ricordo con chi stavo parlando stamattina, oltre a Carlo, e gli arrivavo benissimo lo stesso. Mi hanno dato radio Super 5 e c'ho il microfono normale, giù dove non ne ho il microfono amplificato, c'ho il suo originale. Sì, beh certo che sì, oh, in quanto a quello non c'è problema, io già lo credo, o che sia 9 o che sia 9.10 o che sia 9.30, la differenza non è che cambia molto, è interessante che uno si ascolti bene con la radio, per cui va bene lo stesso, non c'è problema, ci mancherebbe. Se c'è una cosa che io non ho mai tenuto in considerazione è proprio il segnale, perché la potenza proprio non mi è mai interessata nella maniera più assoluta, tanto più che con pochi watt, quando allora usavo, adesso tanto per quanto mi date un'idea, ne sto usando uno, perché più di questo non dà, per cui va bene così, eppure mi sento anche nei paesi, tipo Porto Torres, Muros, eccetera, eccetera, e va bene lo stesso, vai. Infatti, esci più bene dalla macchina che da casa, se ti vedi. Se tu vedi la posizione buona, la parte alta ad esempio del Monte Rosello, su in alto, sono delle postazioni favolose che arrivi dappertutto. Ma io mi ricordavo con la PLDC 800, l'avevo messa nel parafango della Vespetta, la Vespetta 50 che avevo tanti anni fa, e arrivava fino a Nova Monteleone da Bottega, da dove ero io, si può immaginare, cosa che oggi è impossibile arrivarci con l'antenna sopra il tetto. E infatti, adesso ci sono troppi disturbi, capito? Chissà Gianni che fine ha fatto. Gianni, ci sei? Sì, sarà al telefono, sicuramente al telefono, se no avrebbe ripreso. È così, Natalino, perciò va bene lo stesso, non c'è problema, figurati. E infatti, io sono contento di quell'antenna, perché è flessibile e leggera a confronto alle altre. Quella che c'è già è troppo pesante. E infatti, poi non c'era differenza di segnale, perché abbiamo provato assieme, lui con la Turbo 2001 e io con la mia. Differenza di segnali non veniva, e siamo tutti e due uguali. Beh, certo che sì. Ma va bene, io la verità, come ti ho già detto, non ho mai pensato a queste cose qua, non mi interessa più di tanto a me insegnare, a me interessa che mi capiscono, quando mi capiscono basta, va bene così. 1-1 di stazionari, uno quasi 1-1, dai. E infatti, sono antenne veramente fatte bene quelle della Sigma. Io ho avuto anche la Sigma DX, quella bianca, te lo ricordi, quella lunga lunga. E a te poi dicevo a chi dice armatessi. Ma io ne ho avuto una che era 2,75 ed era fatta in due pezzi, al centro c'era una bussola, si avvicinavano l'uno con l'altro, c'era una cosa filettata e l'altro vuoto, sempre filettata, si avvicinava e ne sale. Però nella confezione era completa con una frusta nera, che era la primissima antenna che dopo quella dell'autoradio eccetera che innestavo, e già lo sai come si faceva allora a quei tempi, no? E nella confezione l'avevo comprata da Fara, da Costantino Fara, c'era la frusanella e questa antenna che quando era innestata diventava lunga 2,75 metri, si può immaginare, ma c'era un abisso, c'era da una all'altra. E ti credo, però questa che stavo dicendo io era alta 1,75 mi sembra, quella era in vetro resina, si chiamava Sigma DX, era bellissima quella l'antenna lo stesso, e poi pompava. Me l'avevano rubata dalla macchina a me. Così, ce l'avevamo uguale, non lo ricordo la Sigma DX già. E a voglia che me lo ricordo, aveva la molla fina e l'antenna era lunga e pompava a voce buio. Mi sono addormentato, scusatemi, ma ero troppo stanco e sono pulito tutta la casa e oggi mi ha finito la stanchezza. E infatti di rammigiamenti e Giulio Cattagiani oggi lasciare il telefono, dice avevo pensato, capito? Gira il sovrano e mi faccio un caffè, tanto ci metto un minuto. Dai, perché mi stanno chiamando, ci sentiamo dopo, dai. Scusate, devo abbandonare, mi stanno chiamando. Ciao Gianni, al momento, ciao Natalino, ci sentiamo alle prossime. Dai, se coincide più tardi. Ok, ciao, mi prendi già. E ciao Giulio, dai, non c'è problema, siamo qua. Se Natalino rientra, ci do, attacco il telefono e mi guardo un po' internet. Ma cosa attacchi il telefono? Aspetta, mi faccio un caffè e sto arrivando. Fai, qui non si sa drizzare di bene. Ciao Giulio, comunque, buon proseguo. Un attimo, mi stacco un attimo e rivengo subito che mi faccio un caffè. Cava. Gianni, Ehi, fatto il caffè. Bevuto? Adesso me lo bevo, me l'ho portato qua. Non lo metti sull'apparecchio, se no lascialo scendere. Sì, sull'apparecchio. Se gli apparecchi ce li ho da un'altra parte. Cava gara. E allora come stai parlando? Come? E da dove stai parlando allora? Ma non sono qua sul tavolo, no, gli apparecchi. Scappa. E non lo so come ti sei sistemato, ma mi sembra che ne hai trucchi adesso. Uno me lo devi dare. Ma sta passando per gli attiro. Se vuoi mi dico guricchio. Caga buffonente. Sono rimasto senza, quello là, niente da fare, Natali. Cambiato tutto. Non passa. Magari usato. Eia. Cazzo, non è possibile, no? Purtroppo forse quel l'unico che abbiamo messo, il prefinale che abbiamo messo, che ho comprato da Fusaro, che non è l'originale, perché quell'originale non si trovava e l'abbiamo comprato lì. E magari gli su di 90. Ebbene, non lo possiamo ordinare quello suo, originale. Franco lo sta controllando, adesso ha detto che guarda, che gli dà un'altra controllata a vedere se è altra roba, ma ha detto io non ho visto altro e è partito praticamente, esce di radio ma non dà vacca. Il prefinale che non alimenta i finali gli altri, digli di staccarlo dalla piastra per misurarlo. E ha detto adesso che guarda. Se no bisogna ordinare anche quello lì, originale, perché quello lì non andava bene. Aveva ragione Massimiliano che l'aveva preso lui per il coso, per l'S9 e non partia. Ha preso originali e andava bene. E allora è Ghissu. E Ghissu è già. Dili tu glielo di dirmi la sigla che lo ordino. E adesso vediamo se quello lì. Ma dobbiamo essere sicuri, se no sto spendendo sempre i soldi per niente. Bisogna essere sicuri che magari diranno quello, va bene. E costerà una cavalata quello lì, mi. È piccolino il prefinale, è quello che fa partire i finali grandi. E finale pilota. E quello lì, il pilota. Aspetta un attimo, te la posso fare una videochiamata già? Sì, io. Aspetta che entro, e la faccio al computer direttamente. Hola, hola, Coca-Cola. Prova radio 1, 2, 3. Prova. Prova. Attenzione, canale 10, c'è nessuno? Ora. Ora. Qualcuno qua? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno?